Ciao, ciao a tutti, buonasera. Ho guardato l'altro giorno la recente vedevo, ho visto delle ruspe andando lì a Urbia. Stavo guardando la recente vedevo, ma sono riuscito a capire se di tu. No, no, negativo, noi siamo fermi perlomeno, quelli lì sono in cava, capito? C'è una cava lì verso Uschiri e siamo fermi già più di un mese per il tempo, capito? E anche lì erano fuori della ruspa, erano tutte tre che si guardavano, stavano lavorando, stavano parlando, sai ci avessi perché Massimiliano, quasi che ci sia lui. E niente, vabbè, comunque mi sono fatto il viaggio, nebbia, pioggia, poi sono venuto qua, c'era il sole, cazzo bu. Vabbè, cosa rifarà? KK, vai Claudio, buonasera a tutti comunque di nuovo, dai. Ma ci sto guardando quel video. Guarda, cava. Vai Momolo è sparito. Chi c'è la ruota? Gianni, Momolo, Claudio, poi. C'è Marco, c'è Luca Manicomio. Ci sono io. Guarda come ti sta arrivando con questo apparecchio che poi provo a attaccare a vedere come ti arriva. 9:15 sei già. Guarda così, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 prova. 9:30. Andare. Dichiarati, dichiarati con tanto di foto se vuoi, problemi non ne ho. Cava, avanti, flippere. Come va qua? Io ti ho rilanciato ma tu non l'hai ripreso. Io bene, sto scendo già. Manca l'ora, benissimo. Ma tu di quelli modificati Massimiliano non è più a parare. Sì, a voi, Annaggio. Ne avevo ritirare uno martedì, ma l'ho messo a posto. Il 3009, quello col frequenzimetro. Ah, capo. E poi cosa c'hai? E poi c'ho il tornado, quello tutto con i pomelli trasparenti, che è tutto rosso. E poi c'ho questo qua, le sono. Capo, ragazzi. Mi è stato bene, positivo. Avanti, bombo lì. Capo, mi sei arrivato in fossi, no? Che è? E sei attaccato? Tu da già attaccato, dove sarebbe attaccato? Allora, sei forte, sei. Sei quasi 9:20. Perché sta piovendo, capito? Ah, quindi a pigliare due va andare di più. Bene, mi senti tu, lì? Sì, le cariche elettrostatiche. Già ti sento bene, al tuo. Sei 7:09, a luglio, va bene. Poca potenza, c'ho come un peninuda. Poca potenza, col microfono da tavolo. Rimane un po' malattolosa, là, un po' cupa, come te lo vogliamo, appena, là. Ma comunque va bene. Cappa già, avanti, Luca lì. Luca, non risponde, vai già, riprendi tu, dai. No, la voce di Antonio, amico, sì, Massimiliano. Rimane molto... rimane cupa come voce anche da naturale. Gioco. E cosa mangio? La voce di Fava. Sono un viago di Fava. Io mi stavo sistemando questo microfono che non andava. C'era il PTT, tutto bussumare. Ho preso, tagliato tutto, rifatto tutto nuovo. Adesso sembra che funge, no? Sì, questo qui che è il microfono? Questo è un CTE. Un CTE abbinato al senofo. Ma CTE normale, senza essere amplificato? Sì, CTE quelli normali, il classico normale. Ah, cappa. Se c'è con la Fayette nella LAN 48 per la Fayette. Andava vanno molto bene, anche quello del Galaxy, l'originale va un bel bene, quello del Galaxy può far forte, io l'ho sentito perché ce l'aveva Vittorio una volta, lo stava allineando e coso, e me l'ha fatto sentire, questo è il tuo apparato, io rapporto ottobre, se cazzo esce bene davvero con il microfono normale. No, già esce bene, a voglia. Però non tutti i CTS si ammirano alle radio, dicono i CTS sono belli, escono bene, invece per dire, vabbè, io per esempio nell'Intec non c'ho il CTE, cioè la capsula del CTE, e tutto il resto è NEC si chiama, NEC, capito, come il cantante. Giappa, bianco un attimo, ce la risentiamo dopo, ok? Anche io, uno di quelli belli veramente è quello dell'Egging Quinto, quello va una bomba, è quello del Tokai. tocca 5024, sono due microfoni che pompano forte. Bianco, un attimo, ce la risentiamo dopo, ok? Ciao Antonio, mangia una pizza se andiamo. No, no, mangia i patatini. Mangia, mangia. Avanti a chi tocca, Marco Condor, dove sei finito? Drumito di sì. Tutti andati ce ne sono. Claudio, sì sì. Sono entrato e sono fuggito in tutti, amo. Tutti spariti, sono tutti spariti. Sei rimasto pomposo. Ai ai, cava cava. Questo lo siamo a me, mi guarda, attacchi il VIP, attacchi questo e tutto l'oggi, lo dai. Già gira bene quello lì. E anche l'altro che sta arrivando gira per me. L'altro è fatto da Leo Barone Rosso. Mezzo watt, picchi di 30 watt, a voglia. E che apparato è? Te l'ho detto poco fa, il 3009F, quello che c'ha il frequenzimetro. Ah, sì, sì, me l'avevi detto, è vero. Sei buvinziato, scusami, maletta. Eccomi qua, eh. Ok, ma ci vediamo. Dai un'occhiata là, che poi vedo un po'. Ciao, comunque di nuovo a tutti, chi è che è entrato? Nessuno, sono entrato io. Un secondo che mi allontano, un attimo vado col TH piccolo e la massa è sopra. Consigliere, quando rientri mai ci facciamo su vedi e ti faccio sentire l'amplificatore, quello grosso delle A1000, a vedere com'è la differenza lì da te. Ehi, ehi, fammi andare, se no me la posso. Appare Roger, va bene. A proposito, Claudio, quell'alimentatore che tu hai di quell'apparecchio lì, dove l'hai preso? Quello 24 volt. Dove compri la... il lineare. Ma a 12 a 24, così è? No, no, a 12 dovevi attaccare tu al tuo alimentatore. Loro ti mandano quello 24 volt. Quello 24 volt. Capito? Il mio va a 12 a 24, il tuo va solo a 12, quindi non puoi attaccarlo quello a 24. Infatti il mio c'ha 4 finali, il tuo ne ha 2. E a 9 il mio, cazzo, a 9 finali c'ha. Certo, cioè Romeo a 4, non a 9, quanto c'ha cosa? Allora, ne ha 8 più il prefinale, sono 9. Quindi praticamente tu c'hai 5 finali in più del mio, che il mio c'ha 1 kW e il tuo ne ha 200, quanto c'ha cosa? Ehi, ma bisogna vedere da quanto sono i finali. I miei finali sono come 27 e 47, te l'ho detto anche a Marco ieri, li hai dimenticati? Ah, se mi ci meno vedi, ho 25 watt in uno, ehi vabbè. Il mio non è così, però mi fatelo spiegare a Massimiliano che lui ce l'ha uguale, avrei raccontato solo i finali che delle A1000, un'altra guba, cioè te l'ho già detto, il mio va a 12 e a 24, ok, per avere la massima potenza sia in AM che in banda laterale devi usare a 24, ed è predisposto per i 24 volts, cioè due cavi che escono, 2 a 12 e 2 a 24, mentre il tuo va solo a 12, come fai a prendere quello a 24? Lo farò andare a 12, se va a 12 a 24 tu metti quello da 12 il cavo e basta. No, ma non è quello lì il problema voglio sapere quanto ti dà di stazionare, le hai tirato a manetta? Allora, forse non mi sono spiegato. Il tuo lineare, lascia perdere il mio c'ha due uscite, 12 e 24, il tuo lineare ha due uscite, uno a 12 e uno a 24? No, ne ha solo una a 12, io pensavo all'alimentatore che avesse due uscite, capito? No, l'alimentatore che lo ti mandano è solo 24 volts, esclusivo per quei lineari come il mio. Poi un'altra cosa, è dall'altro giorno che te l'ho detto, io attacco, allora, io così ho uno rapporto a uno, praticamente come dice Luca Fritto, che è la verità, 0,8, 0,8 di stazionari, quindi neanche uno di stazionari, perché si misurano così, 0,8 di stazionari. Quando attacco il lineare, e te lo dimostro quando vuoi, rimangono a 0,8, non devono salire le stazionarie se l'impianto è a posto. Se salgono le stazionarie vuol dire che c'è l'impianto in perdita, ok? No, no, la mia rimane 1,1, come è normale. Però quando ci avevo 747 da 1,1 salivano a 1,4 con 100 watt. E vuol dire che non era l'abbinamento giusto. Se l'abbinamento è giusto, le stazioni sono giuste e tutto l'impianto è fatto bene, le stazionarie non si devono muovere. Non comanda niente, comanda l'antenna, comanda l'impianto, comandano i cavi e comanda quello che c'è già. Vediamo se è rientrato Massimiliano, così ti dice esattamente che lui segnale, non lo ha mille, che finale monta e da quanto sono l'uno. Ma ci vedi, ci sei, non c'è ancora, ma quando rientra poi glielo chiediamo, avanti a tu, non c'è Antonio. Allora, quello che c'hai tu, il 503, è uguale al B300P che c'ho io, ok? È preciso identico, la potenza è quella, 300 watt non li dà, ma neanche quello li dà 300 watt. Perché ogni tanto in sesta marcia io l'ho usato e ne da 230-240, poco più di 200, e in banda laterale ne da 270-280. Questo qua invece ne da di più, praticamente se lo uso con questo apparecchio che è 3 watt e mezzo ti dà 200 watt, se lo uso per dire col Galaxy a manettone la potenza, il power arriva a 30, se vado in banda laterale oscilla, va da 30 a 40. Ma io non ci credo già, ma non lo posso, non è un lineare, il 503 quello lì, quel lineare lì è uguale al B300P, capito? Non è un 550, perché l'ha detto lì, quando ha fatto il 550 allora in banda laterale andava intorno ai 400-420, però sempre con quattro finali di quelli grossi, quello c'è il finale del 747, è impossibile che dia quella potenza. Comunque, quando me lo fai colore tu, io te lo dimostro sul parlato che non ho il watt, metto quello grande, sono tabletti, ho fatto il video, ti faccio vedere quanti watt da questo. Allora, quando tu sei in sesta potenza io sono in seconda potenza e dai gli stessi watt di quello lì, sono completamente diversi, un'altra cosa. Ok, vediamo se c'è Massimiliano. E io appena rientrato, dai. Spiegali la differenza che c'è tra il... Mi ha detto che lui c'ha 9 finali nel 503. Spiega la differenza che c'è tra l'LA1000 e il 503. Io non lo so spiegare, non so manco che finali monta, e tu ce l'hai uguale. No, non ci sono... Allora, intanto nel suo non ci sono 9 finali, ma ce ne sono 4. Ok, però sono 4 MOSFET, non sono 4 transistorizzati, ok? È quello, stavo seguendo un po' il discorso, quel 503 da 300 watt, li dà tutti quanti i 300 watt, ok? Però sono 4, non 9, l'ha detto, sono 9 finali, chi è che ha detto questa cosa? Marco l'ha detto, è già nella ripetizione, infatti ha detto come fai a fare 9 finali, l'altro giorno ha deservato l'uno. Ah, sono 4 finali solo quelli lì, MOSFET però, capito? Invece quello che c'è tu sono gli MRF 422, ok? Sono da 150 watt l'uno. Ma per un botto, vedi che Massimiliano ti sa spiegare bene le cose, che ce l'ha uguale, lui è un professionista di queste lineare transistorizzate, io non ne capisco niente già. Io ce l'ho, ma non so manco come ha fatto dentro. Sì, vabbè, ma è già appunto che se da 1000 watt è normale che abbia finali più grandi. No, lo stava dicendo Marco che c'aveva 9 finali, che ha 8 finali tipo 747 più un finale pilota. Così stava dicendo Marco è abbastanza informato e legge un bel... Io ho ripetuto solo quello che ha detto lui, ma pensavo che fosse la cosa giusta. Io quel linearetto lì ho guardato le specifiche, c'è scritto 4 finali, poi se ti hanno mandato un 9 non lo so, 503 c'ha 4 finali a MOSFET, capito? Vabbè, comunque, ma poi quello che c'hai tu, nel senso che da 150 poi è tirato anche, capito? C'è qualche altro accrucchio dentro che li fanno, gli aumentano un po' di tensione, quindi il finale a posto dalle 150 nella 180, hai capito? Ecco perché poi arrivano a 700-800 watt. È una bella bestia, Massimiliano, caspita, una bella poi con quell'alimentatore lì. La cosa bella è solo 24 volt, solo 24 volt. 24 volt è una bestia, ora provate in HF mio, o Massimiliano. HF in banda laterale, lo sai cosa avanti? Ma scherreggia forte barone, quasi 900 sono me. Ah, sono vieggia! Anche questo però, questo dà qualche picco in più. Vabbè, quello è più grosso, quello è ancora più grosso, sì, quello c'ha, quello ha due ventole, questo è quello ha una ventola. Aspetta simile a quello, diciamo che è simile. 300 watt non me ne va. Ma era 220 proprio in sesta marcia con 5 watt scarsi di pilotaggio. Proprio in sesta marcia, è nuovo nuovo, c'è cioè, l'amplificatore d'antenna, non me ne era subito, c'è tutto, l'avevo avuto poi. Mi era capitata un'occasione, l'avevo preso. E in banda laterale siamo in chimi, non è che supera chissà che cosa. Va bene, allora pianto un attimino che mi devo guardare un messaggio. Ehi, a capa, mi sono sceso un attimino giù, avevo arrivato uno spuntino, me l'ho fatto. Perché mi stavo annoiando, ma giù vizzo mezza bulla di birra, mi ho fatto lo spuntino con le patatine. Antò, ma quella radio mi lascia la regolazione dei watt, è vero? Adesso come sia, a minimo? Sono a minimo adesso. Hai detto? Siamo così, ma... vai Davide, si trocca. Così è meglio, cioè avevi un troppo picco di modulazione, cioè avevi, capito? Capa, però abbasso un po' perché non mi va. L'ho troppo alto. Così va bene, dai. Massimiliano, guarda a colcarsi quanto ti arrivo liscio. Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9,15 scarso però, Ma perché è tutto aperto quanto sono? Un bel forte. E avanti, sono attaccato quando ti arrivo. 9,30 spaccato già. Bravo. Aspetta, una alla volta. Aspetta già, no, tu sei 9,30, dimmi tu. Ho detto, io adesso ho abbassato un po', però quant'è adesso il segnale? 6,8 picchi di 9, ok? Prima eri 6,5 a picchi di 9, capito? Però c'era un bel di QSB, mi facevi. Perché stavo andando piano, capito? Non stavo pompando, stavo andando basso. Già va bene, là. Ok. Avanti, Luccariello. Ma non c'è Lucca, bu. Ma quando bonga maletta già si intende l'alimentatore, Massimiliano. Andava a Giulia. E io l'alimentatore col gas non lo posso usare perché va tutto. Non capisco perché con gli altri apparati non lo faccio col gas, lo fa. Non lo so. Grazie, chi ci uso io. Cosa? Usi quello suo. Stabilizzato o quello switching? È di quelli da 50 ampere switching. E prova a agganciarlo a uno stabilizzato. Ma io sono tutti switching i miei. Ma sai perché te lo dico? Io questa radio che sto usando adesso, se io la collego all'alimentatore switching mi fa alternata tipo così. Invece agganciato lo stabilizzato non lo fa, vedi? Eppure gli altri radio con switching non fa niente, solo questo. Come si fa con questo? Se io lo uso con l'altra radio non lo fa, invece con Galaxy. Se lo uso normale è tranquillo, no? Perché non è con l'alimentatore, con quell'alimentatore, però va bene. Se per dire attacco fatto. Così facevo a me, invece poi non sapevo dove. Era scendere il gabbo lì già, ma proprio scendo di testa. Poi ho tolto questo alimentatore da 10 ampere, stabilizzato, e tu sai vedere, era giusto una curiosità, l'ho agganciato qua e non lo fa più. Adesso per dire non lo sta facendo, là. Però si sente come quando un mano si sente, se sembra che si senta la voce dell'alimentatore, capito? Ehi, cava, stacca che non c'è bisogno già. Avanti, Momolos. Non c'è bisogno di bombare, non è che... No, non c'è bisogno di spingere. Già, penso che sia già troppo io con i batti su dell'apparecchio. Cioè, arriva abbastanza forte. Oh, Massimiliano. Dimmi. Allora, adesso sono passato all'altra base, adesso sto andando con il 574 e la Midland, liscio. Quanto è il segnale? 9. 9. Allora, aspetta che aggancio, Cappa. Qua c'è sul rosso, 9,25 c'è. Allora, qui sono agganciato ed è in seconda marcia, Massimiliano. 9.15 si è salito già. Figura di due. In seconda marcia so già oltre 200 watt sicuramente da questo amplificatore, seconda marcia, tu che ce l'hai. Io. Aspetta che cambio, metto in terza. Ma posso cambiare con la portante calcata, è meglio mollare, no? È meglio sempre mollare, va. Però se lo puoi fare lo stesso, è meglio che molli. No, mollo. Questa è la seconda marcia. Questa è la terza marcia, Massimiliano. C'è già quasi un avviso, dalla seconda alla terza. Sì, oltre i 9.20. Fatelo conto, mi hanno tu. Ascolta Massimiliano quello che ti sto dicendomi. Sono partito da Santiago 9 e sono passato subito in seconda marcia a 9.15. In terza marcia sono già 9.20. Aspetta e metto la quarta. Qui siamo in quarta marcia, Massimiliano. Prova a vedere quanto è salito ancora. Io non ne ho. Se vuoi ti faccio anche la foto, problema non ho, anche il video posso fare. Cioè tu immaginati, Antu, stai ascoltando Massimiliano, da Santiago 9 sono in quarta marcia, sono passato da 9 a 9.30 in quarta marcia, ho ancora altre due marce, le posso sfruttare tutte, poi posso munire solo in folle, adesso vado in quinta marcia. Ma io non ho di chi si goce. Guarda Massimiliano, ho sbagliato io, adesso sono in sesta, ero in quinta poco fa, adesso sono in sesta marcia e la radio non cambia, assolutamente, sempre perfetta perché sono in cuffie. Sì, la radio è perfetta, sì, 9.30 e qualcosina là. Fatti il conto, da Santiago 9 vai a 9.30 oltre, funziona. A voglia che funge. No, la radio è sempre buona, non la satura niente, è proprio zero. Minchia, stavo guardando, la verità radio non piglia sai goife. No, la 97, Antonio, ti ho detto che è una signora radio, non detto da me. Guarda, qua c'è Massimiliano che lui di quelle radio ne ha avuto a bizzeffa ed è un professionista rispetto a me, perché io di baracchini non ne comprendo nulla. Però mi ha sempre detto che la 87 è una signora radio. Confermi, Massimiliano? A voglia. Allora, in poche parole, la 87 è come l'8001, precise identico, hanno la stessa scheda. Tanto e lì se tu inserisci il filtro, tu vedrai che dopo due canali non lo ascolti più, ma forse anche uno basta. Magari che c'è un filtro, sto guardando. Cazzo, uno non ha me, guarda, non c'è scritto ANL, quello lì è il filtro. No, non c'è. Guarda bene cosa non c'è. Ma qual è quello lì? Quello che c'ha i tastini schiacciati o quello tondo? Quelli tondi. Ah, quindi quello è il primo proprio modello che hanno fatto dell'87, là. L'altro ce l'avevo io. Ah, ho provato in via Gigi, a vedere come tiro va ad andare. Vai, no, ramarande. Aspetta un attimo. Cava. Sì, va bene, va benissimo. No, va bene. Adesso mi sono veramente in terza. Terza marcia lo sto usando, dai. Poi è distante. Sì, molto interessante. Questo è il 574 con l'MB più 5 e neanche questo colpi ne prende, questo è della Midland, però è un base. Vediamo un po' Gianni, se c'è Gianni. Io ci sono, aiaia. Va. E che con 100 watt è aumentato i due segnali, con 200 facciamo aumentare le 4 e aumentano 3. E ci avete come te va, in chi vi occupa? Santu, ma cos'è modificato questo apparecchio che c'ha? No, aspetta, è attaccato con Gigi la trottola. Santu, ma secondo me c'è qualcosa che non va però con Gigi la trottola, perché allora con i watt della radio di 9, adesso sì, proprio 9, ma proprio un'idea. Prova a vedere. Sì, ho provato, se vuoi ti faccio anche la foto e te la mando. Sì, Santiago 9 spaccato. Mezzo casingato e ghiccio. Hai gente che ha culato, va? Mi sembra strano, con 100 watt da lì. Allora, con l'apparecchio mi fai da 7 a 9, picchi di 9, ok? Quando tu li attacchi con 747, con altri 70, 80 watt, dovresti arrivare almeno 9.10, ma invece sei 9, buh. Ma infatti, hai visto io, da 9 con 4 watt, in seconda marcia vado a 9.15 subito. Immaginate tu, Gianni, la potenza c'è, sta amplificatore, una bestia. E che differenza c'è, Massimiliano, praticamente con quattro finali a MOSFET e quattro così transistorizzati, così hai detto? Sì, però allora claro, nel senso che 12, capito, 12 volte, quello è 24, una cosa diversa, lavora diversamente. Infatti lo stavo spiegando a Gianni, che questo lavora 24 volte, è diverso, il suo è solo a 12. Capito? Questo ha 12 volte ne dati la midai, si la dati, però questo è fatto per lavorare a 24 volte. Però hai visto Gianni, in sesta marcia, cioè tutte le marce, la modulazione rimane perfetta, non cambia assolutamente niente, vado da Santiago 9 a 9 più 30 li punti. Allora, guarda un po', che adesso è 747, poco fa il VRB 150, com'è? Non si capisce che sia SAT, sembra normale la radio, almeno che le cuffie mi ingannino. Aspetta un tu, cosa hai detto già? Ho detto che ieri mi sono attaccato le cuffie, mi sono ascoltato in sesta marcia, mi sentivo abbastanza bene, cioè comprensibilissima la radio. Ma con quale radio però? Col Galaxy? Col Galaxy, sì. Ho attaccato le cuffie all'Intec, alla base, e mi sono ascoltato. Ho messo tutte le marce, è arrivata la sesta, e mi sono sentito normale, non era SAT, magari appena appena compresa, ma non SAT. Guarda, adesso tu sei agganciato perché io vedo il segnale, no? E stai usando il Galaxy. La senti tu, Massimiliano, questa leggera saturazione che c'ha Gianni? No, questo non sono attaccato io. No, è sganciato. Ecco, tu aggancia visto che stai usando il Galaxy. Non lo puoi agganciare. E fai le prove con Massimiliano. Può darsi che noi siamo, non lo so, però io ti ho fatto la prova, ma anche se ti attacco il B300, è la stessa cosa. Comanda sempre il watt d'ingresso, io col B300, anche se vado in sesta marcia, con 3 watt, non satura, capito? E i watt non cambiano, sempre chi ci sono. Magari sono le cuffie che mi fregano, capito? Guarda Massimiliano, vedete se è satura. No, non è satura, allora secondo me devi già abbassare poco a poco di michini. Secondo me c'è troppa radio, non è satura però, Guarda adesso, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vedi che ha cambiato già. Guarda a vedere come ti arrivo io adesso, col 747. Poco fa era il B150. Anto, Santiago 9. Non è possibile, Anto, non è possibile, mi interessa prendere una radio, Massimiliano, no, con un giocattolo. Se il segnale è quello, io qua non noto differenza, ad esempio, Anto, rispetto a prima. Io non so cosa sei combinente, non so cosa dirti. Prima mi facevi da 9.10 a 9.20, adesso sei sempre fermo a 9.10, non so. Sì, Gianni, così, ma la regolazione che abbiamo fatto l'altro giorno, che io ti ho detto, lascialo così il Galaxy, Gianni, va bene. Se tu invece aumenti la potenza in ingresso, ti manda tutto in distorsione, capito? Oh, ma guarda, adesso ho aumentato l'ingresso, guarda, vedi, adesso sto dicendo con 30 watt esatti, ma 300 non 30. Guarda adesso come va. Adesso un po' saturina, vedi, adesso un po' satura perché gli ha aumentato l'ingresso. Guarda come va la mia, hola. Aspetta, una alla volta. Allora, tu, per farti capire a te, mettimi la portante attaccato. Adesso ti mando una foto, questo è come tu mi arrivi agganciato qua a me, guardatela. Poi ti spiego già, allora, io sono sempre di questo parere, no? Per uscire bene. Inoltre che noi le diamo a qualsiasi farlo, ecco, non a quello, a un 746, a qualsiasi amplificatore. Inutile che noi gli diamo 10 watt d'ingresso per avere 300 watt pieni. Io preferisco averne 280 e uscire bene. Ok, io tutte le radio le uso sempre, io questa qua ce l'ho a mezzo watt per farti capire. Il Tornado è a 2 watt, l'altra radio è a 2 watt e mezzo. Perché è inutile che io la metto a 10 watt, poi gli aggancio l'amplificatore e scu tutto saturo, non ha senso, capito? Non sono quei 30 watt o 50 watt in più che ti fanno la differenza, ecco, tutto qua. Tanto i 50 watt, se sei 25, sei 30, siamo lì, ecco, però la radio è meglio, secondo me. Sì, è così, Massimiliano, ma naturalmente dovevo se non vedo una regolazione, se non sono una regolazione, perché con gli altri apparecchi posso dare il massimo e non fare, non distorce, perché escono con 3 watt. Questo qui te ne do di meno, di 10, di 9 che c'ha, però forse non arriva a 3, arriva magari a 6, a 5, non lo so. Minchia. Galaxy, d'ingresso, quanto gli dai? D'ingresso dovrebbero essere 5 watt, dai, 5-6 watt. Con 5-6 watt ti porta a 300? A 300 mi porta, quando io lo metto al massimo, no, aspetta, al massimo sono 9 watt, al massimo della potenza, per portarmi a 300. Non è butta di gioca, no, Massimiliano? Invece magari, ma tu non ce l'hai perché un wattmetro agganciato per vedere. Allora invece tu provalo il Galaxy a portarlo al posto di 9, mettilo a 5 watt e vedi un po' quanto te ne dà. Se te ne dà 2,80 la radio è bella, lo lasci così, guardati in affutti. Così sì, ma ne dà 2,80, sì. Abbassato così il power. Vedi già la radio ha migliorato, invece dandogli tutti i watt pieni la radio un po' satura, però aspetta, noi siamo anche vicini, capito? Magari questa saturazione in lontananza non la senti, prima provarlo in lontananza, perché io magari sono troppo vicino, non lo so. Ma io la sento anche qua, Massimiliano, leggera, ma la sento anche qua. Aspetta, avete parlato in due, lo so. Ho detto che io la sento anche qua, io sono più lontano, la sento, leggera ma la sento. Non la sento, quando lui mette a 2 watt e mezzo, 3 watt il Galaxy, allora non la sento. Ehi, vabbè, lascia regolato così e basta. Ho capito, no, la regolazione è quella, devo mettere al minimo, proprio al minimo la potenza. Tanto non cambia il segnale, Migia, te l'ho già detto, se vuoi ti faccio la foto come vuoi tu, ti faccio un video, non cambia. Vai sempre a 9.30 il segnale, basta. Può variare a 9.28, ma cosa cambia? Cioè non cambia nulla. L'importante è che c'hai più di 200 watt, poi cosa te ne affutti se invece di essere 300 come dice Massimiliano sono 280, non cambia assolutamente niente. Che non è poco, me, ho visto il segnale, caspita, due buccia di giocano. E anche la versato, è compresso, lo sa. Ehi Anto, abbassa appena l'ingresso a quei watt della radio, abbassa che appena sei un po' saturino. Ecco qua, così va meglio, aspetta. Ora, così va meglio. No, per me deve abbassare ancora. Sarà diso, va bene adesso. Come andare? Non sai cosa sei sceso da 9? Sei sceso un pelino. Ah, sei sicuro che sei 9? A me male 9 più 20. Tu, ma lo conosci lo Smith? Leggi dove c'è scritto dell'S9, leggi sotto, c'è scritto 0, 5, 6, 7 e 9, ok? No, ma di più che sul segnale, vabbè, dai. No, comunque non è buccia di gioca, Ma come fai a arrivare 9 più 20, Anto, agli punti, cazzo, se arrivo io da quassù, da dove sono io a Massimiliano, con 4 watt 9 e 15, ma stai scherzando? Ho già, aspetta, scusa, doppio room, tu c'hai l'S9, no? Sì, ma non ce l'ho attaccato, ce l'ho nell'armadio, dai. No, guarda che ti ho mandato una foto, guarda il segnale, io non dico niente, guarda quanto è il segnale. Ti ho mandato una foto su WhatsApp, guarda, vedete, questo è il segnale che mi arriva Antonio, è agganciato. Santiago! Così è, saggio dico io. Tu, a me da lei, muovi degli occhiali, a me da sotto, dove c'è scritto 7, poi c'è il 9, poi sotto c'è l'altra stanghettina che è quella lì, è 9.30 e poi più avanti c'è il 9.40, guarda bene. E se leggi bene, te la avvicini sopra, è l'altra scala dei watt, ok? Anto, sicuramente tu stai guardando la scala superiore dove ci sono i watt segnati, c'è da sopra i watt e sotto ci sono i segnali. Ah, poi già prima, quando era sganciato, mi arrivava, faceva da 6,5 a 9 come picco di modulazione. Adesso se lui ha agganciato questo 747 mi deve arrivare almeno 9,10, ma invece non supera i 9. Sì, appunto, ti dà, sì, 9,10 dovrebbe arrivare. E cosa ne so io, io, così. Ecco. Avanti. Ciao, buonasera a tutti, vi sto ascoltando da qualche minuto perché stavo facendo qualcosa. Cos'è? Facendo rumore sta. Io stavo facendo le prove. Delle prove tranquille. Ho visto dei grandi miglioramenti di qualcuno, di un paio, ho visto segnali allucinanti, sono saliti. Da parte mia, rispetto a Massimiliano, tu arrivi 9:30, tutti e due, Gianni e Coso e Antonio quando siete attaccati. Passate a 9:30. Qualche picco in più, ma Gianni c'ha di Coso, di Antonio. Ma 9:30 anche in radio? Col grande sto parlando, col 44. Massimiliano 9:25 è arrivato. Sì, Massimiliano è staccato. No, adesso tu sei 9:20 Gianni. Allora, Robè, a me è Gianni mi arriva 9:30, fa da 9:20 a 9:30. Mentre Antonio fa liscio 9:10, 9:20. Col 140 che sai benissimo da dove è arrivata quella radio perché la tarata Bianconi tutta, quindi penso che tu c'hai lo smitter del 440 un po' troppo generoso. Non è così, che è identico a quello del 140, erano precisi identici tutti e due. Comunque fai una prova Gianni, staccato e ti dico quanto arrivi staccato e poi ti dico il segnale. E così sono staccato. Così c'è un peluzzino un po' di più di 9:20, il 9:20 è un peluzzino. Prova a attaccare. Guarda, 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Così superi 9:30, sei quasi 9:35 da parte mia. Capo, la radio è sempre buona. Boh, non l'ho sentita, fai una prova. Ecco qua. Così sono io staccato. Così sono staccato. E così sono attaccato, com'è? Ti mangi un po' la radio, 9:30, attaccate lì, quasi 9:25 sei passata a 9:30. Lo so che mi mangio la radio, però non mi posso fare nulla. Prova tu Massimiliano. No, io sono sempre sganciato, quindi io sono mezzo vatto sto usando. Sei 9:15, più c'hai picchi positivi. No, giusto una prova, 1, 2, 3, prova radio. 9:25. Sì, vabbè. A Puglia, non so quanto gliene state dando. Gianni ha migliorato una cosa spaventosa. Ci avrà qualche cosa pesante sotto. Fate Claudio che siamo attaccati, mi satura tutto come attacca lui. Devo attenuarlo di 20 dB per sentirlo, se no lo sento sotto. Sì, so come in seconda marcia, se metto in sesta marcia ti si scoppia la radio. Sei 9,60 tu qua. I 9,60 con 200, poco più di 200 watt sicuramente. Se lo metto in sesta marcia che ne dà 6-700 si crepa con la radio. Allora sei attenuato di 20 dB, 9 più 45, fate lo conto. E infatti sono con 200, poco più di 200 watt, no ma si vede, io non c'ho un wattmetro. Poco più di 200 ne è a seconda marcia, no? No, ne ha di molti di più di 250 pure. Cazzo figurati. Figurati, io non l'ho manco provato il wattmetro, però Massimiliano già lo conosce molto bene, meglio di me. Quindi seconda marcia siamo quasi a 300 watt, diciamo, dai. Più di 250 in seconda marcia, fate lungo. Va bene, avanti Antonio Bombolo, riprendi. Capa, adesso boh, adesso a minimo coi watt, però non lo so quanto dà, la verità non ti so dire. Capa, comunque va, dai che va. Cavolo. Da Roberto forse lei, ma comunque da Roberto sono sempre stato più aperto, non so perché, non so il perché, forse c'è il corridoio tra me e Gianni. Tra quella zona dove abiti tu, forse c'è il corridoio aperto. Può essere, perché sono sempre arrivato più forte, però può essere che magari sono più aperto io di te, capito? Qualche cosa, ma è poca differenza. Ma aperto di chi? Gianna, che c'è l'an di Torino, c'è il corridoio. Potrebbe essere. Ma tra te e Gianni? Da Roberto sto parlando. No, Gianni arriva più forte. Gianni, te l'ho detto, arriva più forte, anche a me, liscio e liscio, alto. Madonna santa, grazie, mi sei dolce il comprendoio. Gianni arriva più forte. Tu sei 9:10 da me, io guardo da me, col K6, 9 più 10 liscio, e quando attacchi sei 9:20. Gianni è 9 più 15 liscio, e quando attacca è 9 più 30. Lascia perdere che abbia più watt di te, ma liscio e liscio, Gianni è più alto di te qua. Sì, magari hai il corridoio più aperto, capito? Io magari sono più aperto per Roma. essere. Vabbè, guarda adesso, vedere il segnale. Come lo vedi il segnale, si è aumentato. 9.35 spaccato, sì. Le prove si fanno a parità di potenza, cioè stiamo facendo delle prove così, cioè non esiste il discorso. Non sto facendo prove con nessuno, io sto provando solo la apparecchiatura che ho io, e voglio vedere come va tutto lì. Perché bisogna prendere due baracchini di stessa potenza e fare le prove, così si vede. Ma come logica, più vicino a sé e più arriva vicino e più forte uno, poi bisogna vedere il guadagno delle antenne e tutto. Si possono fare queste prove, comunque dai, è importante ascoltarci di tutti, una burla di una futi, 300, 500, un kilowatt, ah, chi lo vuole un kilowatt che lo sto vendendo? Valvolare? No, transisto. Chissà che tu risuccia? No, mi interessa, io, guarda, stavo facendo solo la prova per vedere come andava. Anche devi fare il mobile un po' più grandetto e non ci sta di lunghezza. Ti rubo più in terra, Marino. non ti chiude lo sportello, tocca stare lo sportello quello aperto. Già questo è in fondo vicino alla finestra con il guru banchetto, figurati, perché non ci sta sopra. È un po' più piccolo di quello che a Massimiliano, perché è una ventola, quello cioè ha due ventole, però sono dei bestioni. Sono dei bestioni, però funzionano e funzionano veramente bene. Oggi come oggi l'amplificatore che sta andando di più anche a livello amatoriale, i 0.30 sono tutti allo stato solido. Valvole non ne sta comprando più nessuno. Allora, la valvola è sempre meglio del transistor, io sono di questo parere. Anche quando tu metti un BV2001, per farti un esempio, con qualsiasi lineare a valvole, ogni canale che ti sposti devi sempre stare a cordare, deve scaldare, si scoppia una valvola, non si trovano più, chi ti accende moduli, se lo sai usare questi ti sono una vita. Ma infatti io ho avuto un consulto con un radioamatore abbastanza professionista e mi ha detto oggi come oggi le valvole non si usano più, gli amplificatori HF sono tutti allo stato solido, sono molto molto più tranquilli, non creano problemi e funzionano come quelli a valvole, chiaramente a parità di potenza, chiaramente. Però dice è molto, vanno molto molto meglio, capite? Tutto qua. Avanti Robert, prendi. Beh, vabbè, il transistor è la comodità che prende a tanti, però sino a un certo punto, dopo un certo punto il transistor si siede e bisogna andare con le valvole per forza. In alta frequenza ci vogliono solo le valvole dopo un certo numero di watt, perché non con il transistor non riesce a arrivare. Puoi arrivare tirando al collo a un kilowatt, ma oltre no, oltre non ce la fai più. E cosa vuoi di più? Cosa devi usare? Kilowatt devi usare. Certo, un radioamatore li può usare tanti kilowatt perché fa collegamenti a lunga distanza, ma a me ad esempio lineare non mi serve, anzi, esci nel tacco, ti non me ne fotti nulla, è giusto una prova. Cos'è Robè? Non ti stavo ascoltando questo discorso che hai fatto, cos'è a lungo andare? No, ho detto, oltre una certa potenza col transistor non puoi andare, è matematico il discorso, perché il transistor per avere potenza li devi accoppiare, arrivato a un certo punto poi ci sono altri problemi, per cui devi andare, le valvole puoi arrivare anche a 50.000 watt, 100.000 watt, non è nessun problema di rientro e cose, il transistor c'è a un certo punto. Poi ho visto Massimiliano, cosa mi hai mandato? Poi è cancellato, cos'era? Perché è uscito male, no, ma comunque no, non è così come ti sei sentito, perché qua c'è una persona che si è fatto un linearetto da 32 finali e le dà 7.000 watt, e lo conosci anche? Sì che si può fare, io conosco gente che ha fatto degli amplificatori per altre cose di centinaia di migliaia di watt, però sono dei cose particolari, costruzioni sperimentali e cose, io parlo di cose normali, cacchio, burro sono andato e burro sulla luna, c'è per quello, però parliamo di cose normali, tu puoi costruire con un transistor con certi problemi, con le valvole quei problemi non ce li hai, per cui tutto in alte potenze, quando usi 3, 4, 10, 15, 20 kW, col transistor ti devi fermare, non ci riesci più, ma te lo dico per esperienza di altre cose, infatti tutti quelli che usano potenze esorbitanti, tanti, tutte le radio professionali bloccate, tutto a valvole, non esistono a transistor. Non esistono a transistor, te lo spiego io il perché, perché non riesci a alimentare poi, capito? Se no a transistor puoi fare anche 200.000 watt, cosa pensa adesso? Puoi accoppiare tutti i finali che vuoi, il problema è alimentare, capito, quella roba lì, invece tu a casa se c'hai 20 kW a valvole, ma devi avere anche corrente però, se no manco chi su anda. Ah, quello è un altro discorso, però è più problematico costruire un amplificatore oltre una certa potenza, tu sino a 4, 500, 600 watt con transistor, attacchi e vai, oltre è un po' più complicato, perché ci sono troppi problemi di altre cose, dai. Eccetera, è molto più instabile rispetto alla valvola, con la valvola c'hai meno problemi di coso, di stabilità eccetera. Vabbè, Massimiliano, non mi è arrivato niente però a me. Cosa no, non è che è arrivato come? E te lo mandai, non l'hai mai dato, vedi messo. No, lo sai cos'è, probabilmente ho cancellato, quando c'era il messaggio rinviato, io in quel momento lì ho cancellato e forse me l'hai rimandato in quell'istante di lì, che stavo cancellando. Va, te l'ho mandato. Cava cava, avanti, bombolos. Capa, dai. Dai, però sono contento, dai, è un po' meglio degli altri radio già va questa. C'ho anche l'MB più 4, quindi il capo, sono contento la verità, è da qualche ora che lo sto usando, poi ce l'ho avuto anche in passato, te lo ricordi quello modificato, Massimiliano, ce l'ho avuto anche in passato e la verità, sono contento. Sì, già va bene, da voglia. Avanti, Icla. Io ho sganciato, intanto no, non c'è nessun problema. Era giusto per fare delle prove, va bene così. Ok. Sì, beh, così come ha detto Massimiliano, valvole. Sicuramente hai una diversità di potenza, ma devi avere pure un kilowatt, devi fare abbonamento con l'Enel. È anche meno pericolo, capito? Mentre invece lo stato solo devo fare qualcosa. Vabbè, avanti Gianni. Ho cambiato apparecchio e in questo momento mi sono accorto, mettendo il PL, che è uscita la scintilla, ci sono cariche elettrostatiche nel PL. E dove? Nel PL dell'antenna? Non dell'antenna, è lo spezzone che va... ci sono cariche elettrostatiche. Ho lasciato il PL per metterlo e è uscita la scintilla. Scaricale, normale, scaricale. Vedi un cacciavite e fai dalla punta del PL alla massa del PL. Cavolo, una volta Babbo ne ha cavato il PL, l'ha tirato chissà cosa e sei scinda. Sei scinto tutto per aria, sei scinto. Ma se vediamo, dimmi. Ma quello è a 24 volt quello che mi hai mandato. Lo vedi, devi salire un po' di corrente per farli funzionare. Se lo fai a 12 volt quello lì, cacchio, ti assorbe il doppio della potenza di uno a 24. Ci vogliono 100 ampere per farlo andare quella roba. Lo so, però io a fianco ne ho 300 di ampere a 12 e 150 a 24. Ci vediamo. Quanti ampere sto usando io con l'alimentatore a 24? Con quello che stai usando tu sarai intorno ai 40 ampere a 24. Poi gli altri due manaline sono a 12 e sono 100 ampere. Quindi sono 100 ampere, sì, già è così. Da. A 24 volt ci vuole quello, Roberto. Capito. Infatti per arrivare a coso, per ridurre l'assorbimento deve aumentare la tensione. Cosa c'è? 150 per là c'è una saldatrice, Massimiliano. No, c'ho 6 switching, uno accoppiato con l'altro, tutti a 50 ampere. Allora già riesci a farlo, se no solo con quei caricatori per batterie da coso, per auto, quelli gruzzi, modificando uno di quelli riesci a farlo, se no devo un coso, un autocarro per dare quella, come si chiama, quella corrente. Questi Massimiliano sono 2 da 25 accoppiati, no? No, quelli sono 2 da 50, non da 25. Ah, è vero, e quindi già avevo ragione io, 100 ampere. 100 ampere, sì, 100 ampere, dove ne uso 40 a 24 e gli altri 100 a 12, gli altri 60 a 12, sì. 100 ampere c'ho io, Robè, 100 ampere, anche questi sono due praticamente alimentatori accoppiati da 50 ampere, capite? Quindi vanno in serie. Va bene. Comunque ti ho detto, Antonio, che quella radio io l'ho avuta ed è una bellissima radio. Poi me l'aveva prestata Massimiliano, se si ricorda, proprio l'87 modificato, ed era una bestia, veramente molto molto interessante, molto bella, anche esteticamente una bellissima radio. Quindi bene, ti racconto, e stai attento quando cambi e fai, comprati un commutatore d'antenna, se devi usare due radio e due lineari ti compri un commutatore d'antenna serio, ok, non stretto ghiaccio della ZG, un commutatore serio, ti colleghi tutte e due le radio, antenna a uno, cambi, capito? E non stai, attacca e stacca, perché attaccando e staccando è un casino. Avanti Gianni. Quella mia era. Cos'era? Quella modificata a corte, quella era il mio. A me me l'ha data Massimiliano a provare. Così è Massimiliano. Sì, Ah, è quella che avevi comprato a Pierpaolo. Ho capito, cazzo, gran bella radio. Gran bella radio, come bella era quella 3009 corte che ho dato a Valerio. Quella era una bestia, quella tutta blu. Quello era bello. Adesso ne ho un altro del 2009, adesso martedì o mercoledì me la portano, però è quello che c'ha il frequenzimetro. Cazzo, quella è bella, eh. Quella che ho dato a Valerio non li aveva frequenti, è un 3009 come quello che c'ha Gianni, solo che raccolti, così è. Sì, è uguale a quello di Gianni, però c'aveva tutto cromato, era davanti, capito? La prima volta che mi aveva portato c'aveva lo smitterino color normale con la lucettina sua e il coso, il commutatore dei canali era rosso, a me così non mi arriva e in più non mi piaceva neanche la radio, quindi gliel'ho rispedita indietro e mi sono fatto mettere il commutatore, il visualizzatore dei canali blu e due led blu nel meglio della radio lì, che non fate ci si arriva quasi a 40, è stato una radio, un mostro è una radio. È molto bella, io mi ricordo quando ho provato quella col lineare, sono arrivato, c'era come si chiama? Non mi ricordo che trasportatore amico di Civas c'era, che stava entrando lì vicino a Oristano, si è assoltato, cioè, e mi c'era Gigi con me, ogni radio, ogni segnale che avevo, Isso Maria Gatti. Bella radio, bella esteticamente e bella anche come funzionamento. Avanti Robert, riprendi. Adesso mi senti bene, si può togliere l'attenuatore. Ma che radio stai usando, cazzo? Bianco per me. Io sto usando il Midland 574, 78574 con l'MB più 5. No, ti ascolto bene, non ci sono problemi. Ma mi ascolti bene anche quando aggancio, è che il segnale è troppo forte, ma la radio non cambia, è sempre bella. Avanti già, tu è che stai facendo bianco, Antonio? Io sto facendo bianco un attimino, ci sentiamo dopo. Antonio, Massimiliano, ma un alimentatore a 12 da 100 ampere dove si può buscare? Accetti, li fa, vai e compralo. Ti compri due switching da 50 ampere, le fai una scatola e c'hai il 1224 con 50 euro di niche. A me mi piacciono con gli strumenti. Cosa già? Non si possono agganciare, li compri, costano i 3 euro l'uno. E io quelli che ho nell'alimentatore non ho gli strumenti. Ho gli ampere e l'amperometro e il voltometro. E segnano giusti? Beh certo che segnano giusti, sono digitali, no? Vanno attaccati cazzo, agli alimentatori. E certo che segnano giusti. Uno il mio non funziona adesso che la si faccia due con un cacciavite. Vabbè, ma Siviglia, l'avete fatto con un professionista, eh? Già, devi stare attento a copiare quelli, vanno fatti bene. come c'ho io, Gianni, come c'ho io? L'alimentatore c'ho io da 100 ampere. E certo che non lo trovi, devi usare quello della CEP che costa 300-400 euro se ti basta. E invece sono due accoppiati da 50 ampere e c'ho 100 ampere, capito? Per l'amplificatore, solo per l'amplificatore, poi per le radio c'ho il Prox da 60 ampere, uguale a quello che hai tu, e poi c'ho il Diamond da 50 ampere. Sì, ma il bello se lui li accoppia così, c'è anche il 24, capito? C'è anche il 24, quindi questi linearetti così a 12 si ribubulo bugà, tanto c'è il 24. No, ma se vedi, attenzione a non confondere, se tu prendi due alimentatori 12 volt 50 ampere, li colleghi in parallelo, c'hai 100 ampere a 12 volt, se li colleghi in serie c'hai un alimentatore da 50 ampere a 24 volt, siamo attenti. Cosa ho appena detto io? No, non è che uno dice metto due alimentatori a 12 volt da 50 ampere per fare 24 volt, c'hai sempre 50 ampere se li porti a 24, se li metti in parallelo c'hai 100 ampere 12 volt. Così ho detto, così, e allora se colleghi in parallelo c'hai 100 ampere a 12 e 50 a 24, la metà. Quello lì infatti c'è la legge di Ohm da rispettare, no che uno dice attacco due alimentatori da 12 da 50 e ne uno da 100 ampere da 24, non è così. E io cosa aggiungo ancora? Io ho 100 ampere di cui ne uso 40 a 24 e 60 li uso a 12 volt, no? Sì, così è giusto. E così abbiamo detto. Ah, ho capito. Io ne ho 6 accoppiati, capito? Così in parallelo. Quindi sono, vatti il conto, sono da 50 ampere l'uno, ok? Sono 6 accoppiati, sono 300 volt, 300 ampere a 12 e 150 a 24. Cavolo, allora avevo la cabina elettrica per farlo funzionare. Allora, fatti il conto, quanto ci vuole di energia, quanti watt tirano fuori con la roba? Adesso tu un esempio, no? Se entri nel sito della ZG, no? E prendi il B1200, ok? Lo ZG 1200, cioè 9 finali. 9 finali sono 1000 watt. Tu me lo porti qua e io te lo collego e te lo faccio funzionare. Ma se tu me ne porti anche uno di 2000, te lo porto e te lo faccio funzionare. Con 150 ampermi te lo faccio funzionare anche uno da 2000. 1200 sono 80 ampere, quindi se c'è corrente già riesce a farlo funzionare. Fino a 150 ampere io ti faccio funzionare lineare, capito? Naturalmente non è se ti tiene il contattore. Non ne assorbe 3 kW, no, ma l'assorbimento è tutto completamente diverso dalla valvola, il transistor. Allora, se quello tira fuori 1200 watt effettivi, parliamo di potenza massima, 1200 watt, di potenza effettiva dissipata, consumata, ce la saranno 2000 watt. È matematico, perché il rendimento di un apparecchio non sono 1000, se te ne ha 1200 c'è sempre il consumo di calore, per cui saranno 2000 watt di assorbimento, parliamo di contattore. Guarda, per farti capire, cosa già lo conosce, Claudio già lo conosce Albino. Allora, in macchina di Albino hanno attaccato un V8 che sono 1400 watt, è della Bias, con un alimentatore uguale a questo e un trasformatore da 12 a 220, ok, con un alimentatore uguale a questo l'ho fatto andare un V8 in macchina. No, ma io ti sto dicendo, quando assorbe un apparecchio 100 watt ne consumerà almeno 150, perché il rendimento di qualunque transistor, cioè di qualunque amplificatore, anche se te ne assorbe 100, c'è sempre la perdita per il coso, per il calore, il consumo termico, per cui è come un amplificatore hi-fi, c'è scritto 100 più 100 e poi dietro guardi consumo 300 watt o 400 watt, perché c'è quella che dissipa in calore di potenza, è normale, è una legge normale, non ha un rendimento del 100%, vai, un amplificatore ci arriva al 90%, quelli in classe D, quelli nuovi che stanno facendo, ma sono cose nuove, non è il caso di quelli che stiamo parlando noi. No, ma per farti capire che non consumano più di tanto questi cosi, hai capito? Vabbè. Avanti già. Ma io ho l'impressione che questo 6055 della Proxel abbia qualcosa, perché sino a 100 le legge bene e poi comincia a fare questo rumore, una cosa del genere, tipo quando c'è un corto. No, quello non è un corto, lì c'è qualche condensatore, qualche cosa in perdita e non ce la fa. e tu prova a infilarle il tester, il puntale, così prova a vedere anche quando stai modulando se se ne scende, no? Se te ne accorgi subito. E beh, lo vedo dagli apparecchi, dagli strumenti, non si vede. Arriva fino a 21 quando lo porto al massimo, 21-22. Allora c'è qualcosa che non va, ho visto. Avanti qua. Già, io ce l'ho una vita, io me l'avevo fatto ordinare da Vittorio Giove, quello la Prox dal 60-55 o 55-60, e io c'era un periodo che avevo 4 HF attaccati, non mi ha mai creato problemi, ho sempre usato amplificatori anche trasistorizzati, vabbè questo è il più grosso di tutti, però anche altri che mi avevano fatto provare, ho provato anche quello di, no, quello tuo non me l'hai fatto provare, quello grande Massimiliano, quello di Stefano l'ho provato, è che è simile a questo.